e noi e lei fra noi vorrei, non so che lei o no, le mani, le sue pensiero stupendo. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi vorrei, vorrei. Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu, e noi, e lei, fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei. Le mani, le sue, volta con due vorrei, per amore o per vivere, dipende da me. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire.